non bevo, se in abito non proprio io ti ricevo. La sua gran cortesia, troppo, troppo mi vuol confondere. Mi pare che sia tempo di prendere lezione. Sì, la rindo, hai ragione, e prendere la voglio. Si spogli la domanda. Or me ne spogli. Eccomi qui in battaglia! Aspetti! Aspetto! Bisogna fare le cose coi metodi nobili! E non si mette in guardia! E rosi! E sputi! Tengo un po' più piegato il ginocchio sinistro e dritto il destro! Va bene, signor maestro! Così? Sì! Tiro il colpo! Aspetti! Aspetto! Stendendo la stoccata in un momento sono libero e franco. Deve muoversi il braccio e il piede e il fianco. Attento, tiri! Ah! In guardia mi rimetto! No! Fermo! Aspetti! Aspetto! Voglio così? Così. Ritorno in guardia intanto. Oh, ben fatto. Ben fatto. All'alba, presto. Ah. Cavi. Cavo e ricavo. Bravo. Bravo il signor Vanesio. Bravo, bravo, bravo. Or su, veniamo alle ballo, che mi aspettano poi sella e cavallo. Ed incominci del minore li passi. Eccomi in positura. Ah, che bella figura. A lei faccio un coppè. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Questa gamba va bene. Va bene. E questa. Va bene. E questa ancora. Su, via. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Venga le pompe in fuora. Eccole, eccole in fuora. Marte furibondo, furibondo, furibondo. non vi sarà. No, no, no, no, no, no, non v'è. Non vi sarà, non v'è. Un marte furibondo, furibondo, furibondo, sarò nel tarduello, nel tarduello. Crescendo più va, crescendo più va. Aspetti. aspetto, ma quando sarà? Aspetti! Aspetto! Tra poco verrà! Con sonno di letto, il mio gabinetto, con sonno di letto, la voglio aspettare. Le cerimonie, il maestro premier della città, ha detto come va, ricevuta da me, la baronessa. E oh, quando s'appressa fare prenti, dire primo a questo modo, e dar due passi avanti, e poi secondo, ma che sia profondo, muover veloce lentamente il passo, e dar finta per terzo, assai più basso. Innanzi di sedere, faccia favor di ritirarsi alquanto, perché possa compire al mio dovere. Il tuo dovere? Sospiro, sospiro, che si ritiri un poco. Ora mi ritiro. Io, per atto di stima, ho già fatto la prima, ho fatto la seconda, ed or con sua licenza le devo far la terza riverenza. Ubbidi per servirla, non per mia pretensione. Ecco la mia terza venerazione. S'accomodi, illustrissima, illustrissima vena, illustrissima, e di farmi onore di sedere. E sieda. Obbliga il suo bel tratto. Illustrissima dama, ella col visitarmi fa gonfiarmi di gloria, anzi è grazia, anzi è gloria. Mi fa restare confusa la sua grande cortesia. Anzi no, anzi sì. Conosco ch'io non merito di meritare con merito, e so che il mio demerito è presente e futuro, ed è preterito. Lo suo orrore beltà è noto a tutti. Ah! È mio di tutti, è noto a me. Dir non si può quanto mi piaccia. Oh. Dalla mia patria vengo qui per cercarla e trovo comandare tutte le donne. In quanto a questo è vero, onde mercedi spera. No. non mi lascian campare un'ora in pace. È fatto da rigare. Ma per dirla com'è, ritrovo in lei un certo brio brillante che piace agli occhi miei. Quelle ciglio lampeggiante dolcemente mi strazia. Signora mia, per grazia si levi in piedi e mi passeggi avanti, poi mi faccia un inchino. Piccolo porporino, diga il mio volto questa sua di mamma, pure son costretta a far quel che comanda. Che bel taglio di vita! Che andamento che alletta, par giusto una barchetta. Che gentil portamento, e basta, basta, non più morir mi sento. Non provo la sua morte, provo. Che brava. Thank you. Porti a questo seno pace e riposo. Io sono già tu. Ed io sono il tuo sposo. Thank you. scherni miei, la cagione tu sei. Ma son tua moglie. Non ti vorrei nemmeno per serva di cucina della mia nobiltà, ladra, assassina. Tu, galantuomo, mai non sei stato, non sei, né mai sarai. Mi tratta come tale ogni gran cavaliere. Ed io ti dico che non c'è alcuno che ti stimi un fico. Per tuo maligno eccesso ciò mi succede adesso, onde uscire fuori di casa. Vanesio non s'arrischia, cullo burla. L'uno ride e l'altro fischia. Gridano le persone, schiavo, signor barone, messie baron potre servar. Gut morgen, herr baron, mi scarnisco le dame. Signor baron, la rivedesco. Gut morgen, herr baron, messie le marchese. Ah, ragazzaccia infame! Oh, guarda che gentiluomo! Vedi, che cavoliere! Io ti ho fatto per gioco essere barone, e gli altri ti faranno barone davvero! Taci, plebea pettegola! Della mia regola, che bottegara io sono! Era tuo padre dell'ordine più vile dei bottegari, dunque sono tuo pari. Come mia pari? Venti, non può essere, non può stare. Giove non lo può fare, son tutte invenzioni. L'interno ancora si volge contro me. Spirti maligni, allarmi, allarmi, allarmi! Tutti vi sfido a guerra. Tiratemi, vi prego, fuori da questo luogo. Correte, ch'io m'annego. Aiuto, ch'io m'affogo. Correte, aiuto, aiuto. Presto, presto, presto, presto. Venite a volo. Male fin, son giunto al nido. Al fin, son giunto al nido, al nido, al nido. Mi muove la compassione. Ed hai potuto, donna, ingannarmi. Ma sei, porgi mi aiuto. Fallo chi è qui, fallo due, che c'è, fallo. Poi via sonare, via sonare, sonare. Seguitate, ch'io vo cantare, io vo la. or via solate, ch'io vo tornar da capo. Da capo. Ma che mi sturba, quimè, che vedo, tutta rinda, costei somiglia. Marita, sogno, dolce marito mio. Che mio, che mio, perfida maga. Ma tentarti placarlo. Tu che facessi il nodo, hai da disfarlo. Dalla natura e non dal caso. Cor mio respira e vivi, che d'esser tuo ti giuro, che nel passato già punto non curo. Coraggio, coraggio, Larinda! Faccenda conclusa. Son tornato in me stesso, ed io te ne professo.